Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Parigi sfida Roma, sul clima andiamo avanti, è irresponsabile fermarsi, dice Sarkozy, ma intanto parte il tavolo tecnico. Il peggio alle spalle, dalla presidente degli industriali Marcegaglia una sferzata di ottimismo e la buona notizia arriva dai tassi interbancari, l'Euribor torna sotto il 5%. Sembra fatta per la Corte Costituzionale, sembra vicino infatti l'accordo tra i poli, il nome che potrebbe mettere pace è quello dell'avvocato Giuseppe Frigo. Un patto di stabilità per l'università italiana, in campo scendono ora gli atenei virtuosi. Tra ricchi e poveri cresce la disuguaglianza e l'Italia al mondo è al sesto posto dopo gli Stati Uniti. Febbre da Super Enalotto, 347 milioni di euro giocati, per vincerne 94. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Una sfida all'Italia sul pacchetto clima ed energia, andiamo avanti. Ad usare queste parole questa mattina il presidente francese Nicolas Sarkozy parlando davanti all'Europarlamento. Ne parleremo tra poco. Sì, perché proprio in questi minuti a Bagnoli, a Napoli, è alle prime battute il discorso del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi all'Assemblea dell'Unione Industriale di Napoli. E allora sentiamo cosa sta accadendo da Enzo Danna, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Come avete detto, è iniziato da pochissimi minuti l'intervento del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che sentiamo. E da imprenditori, presidente, noi siamo gente che di solito alle parole fa seguire e sa far seguire i fatti. Vi attendo alla prova. Promessa pubblica, promessa che sa da mantenersi. Berlusconi ha parlato in avvia del suo intervento dei rifiuti, ha detto tra l'altro che il problema è in parte risolto, ma ci sono da compiere altri pezzi di strada. Poco prima era intervenuto il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che nel suo intervento ha toccato diversi temi. Per la Marcegaglia la fase acuta della crisi finanziaria internazionale probabilmente è alle spalle, non è la fine del mondo, ha detto, ora si apre una fase nuova e occorre lavorare per cercare di ridurre l'impatto della crisi sull'economia reale. Ma ecco cosa chiede il presidente di Confindustria al governo. Un qualche strumento che aiuti la capitalizzazione delle imprese. Se un imprenditore decide di mettere soldi nella propria azienda, abbiano qualche forma di agevolazione fiscale. Così come chiediamo che ci sia anche qualche supporto agli investimenti, Tremonti Ter o altre forme, anche qui dove ci sia un'aliquota agevolata per la parte di utile che corrisponde agli investimenti nuovi che fa un imprenditore. Così come siamo d'accordo sul fatto che ci possa essere un piano serio di supporto al risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, che riguardi tutti i settori. Tutti coloro che vanno nella direzione di fare un risparmio energetico dovrebbero avere qualche forma di agevolazione fiscale. Su questo, ripeto, pur conoscendo i limiti della finanza, chiediamo al governo di riflettere in questo caso. E il presidente di Confindustria chiede anche al governo di garantire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, inoltre un grande piano per le infrastrutture. Si è intrattenuto proprio in conclusione del suo intervento anche sulla questione rifiuti, ha detto, rivolgendosi al sottosegretario all'emergenza Guido Bertolaso, attenzione a non scaricare sulle imprese sanzioni e oneri per la mancata raccolta differenziata da parte dei comuni. Da Napoli per il momento concluso, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna, ma dicevamo della vicenda che riguarda il pacchetto europeo su clima ed energia, le misure europee contro i cambiamenti climatici per diminuire le emissioni inquinanti. Una vicenda che nonostante i vertici europei di questi giorni sembra davvero tutt'altro che chiusa. Allora sentiamo che cosa è accaduto questa mattina, parlavamo delle parole del presidente francese Sarkozy. Sarebbe drammatico e irresponsabile abbandonare il pacchetto europeo sul clima a causa della crisi finanziaria. È questo il pensiero del presidente di turno dell'Unione, Nicolas Sarkozy, che ha parlato davanti al Parlamento. La presa di posizione arriva dopo il duro confronto tra l'Italia e l'Unione Europea sulla riduzione dei gas serra, una misura che il governo italiano ritiene troppo onerosa per le imprese nei termini stabiliti dalla Commissione. L'Europa, ha ribadito Sarkozy, non deve abbandonare né i tre obiettivi del 20% né il calendario per arrivare a dicembre a una decisione sul pacchetto clima. Bisognerà trovare delle linee di flessibilità nel rispetto degli obiettivi, ha aggiunto, lasciando dunque lo spazio per una mediazione con i paesi che sarebbero più penalizzati dal pacchetto. Poi una proposta per contrastare la crisi dei mutui. Eh bien, moi je demande que chacun d'entre nous nous réfléchissions. Domando a ognuno di voi di riflettere sull'opportunità che potrebbe esserci di creare anche noi europei dei fondi sovrani in ciascuno dei nostri paesi per dare una risposta industriale alla crisi. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. A rispondere dall'Italia il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi. Noi non chiediamo di annullare, noi non chiediamo di stoppare, noi vogliamo rispettare gli impegni presi, noi vogliamo contribuire, anzi aumentare lo sforzo per difendere l'ambiente. Ma abbiamo una crisi finanziaria enorme che colpisce il sistema delle imprese, colpisce le nostre singole famiglie. Allora noi chiediamo che cosa? Riflessione, tempo ed un accordo equo. E sentivamo dalle parole del presidente francese Sarkozy comunque la via di un compromesso con margini di flessibilità sembra aprirsi su questa questione del clima in Europa. Infatti poco fa la notizia che il tavolo tecnico tra le autorità italiane e la Commissione europea partirà la settimana prossima. Sarà proprio in quella sede dunque che si cercherà di far quadrare le cifre. Le cifre su un piano, quello di cui si discute, che è davvero un piano equo o no? La domanda la giriamo a Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna. Buongiorno. Buongiorno, la mia riflessione è soprattutto appunto sul livello della conoscenza che noi abbiamo per risolvere appunto il problema dei cambiamenti climatici, che va collegato a mio avviso a quello del grado ambientale a livello planetario e quello del problema dell'energia sostanzialmente. Cioè, al di là di quella che è la posizione europea potrà avere una azione certamente dimostrativa, bisogna che ci si ponga il problema completo a livello planetario, probabilmente anche con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, in modo da impostare le cose che possano avere un effetto reale sul clima del pianeta. La conoscenza che noi abbiamo attualmente non ci consente di prospettare un miglioramento effettivo. Sì. Professor Prodi, questi giorni si dice: se l'Europa si batte per il clima ma non lo fanno poi altri paesi, non serve a nulla. Va rivisto Kyoto, va studiato meglio quello che sta succedendo? Sì, appunto, trascurato l'effetto dimostrativo, virtuoso, ecco, dell'Europa, ma bisogna approfittare per coinvolgere tutte le nazioni e i continenti per uno sforzo comune, altrimenti diciamo, la penalizzazione che avviene a livello del mercato porterà sempre a un'azione disarticolata, non coordinata. Insomma, non è l'Europa la sede sufficiente, perlomeno? Senz'altro può essere appunto una capofila verso un'azione virtuosa, ma deve essere seguita da tutto il resto del mondo assieme in un modo coordinato, ma anche occupandoci di quello che ripeto, il degrado ambientale a livello planetario, che è un fattore da tenere molto presente. Questo naturalmente crisi o non crisi. Grazie davvero a Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, e lo ringraziamo anche particolarmente perché sappiamo essere in ospedale in queste ore per un intervento, ma ha comunque voluto essere in diretta con noi. Grazie, allora, e buona giornata. E la satira sulla stampa su questo argomento LK su Repubblica. Difendere l'ambiente è un investimento per il futuro, dice il personaggio. E l'altro, sì, ma Berlusconi ha 72 anni. E questa era una, però adesso vogliamo citarne subito un'altra. Da una vignetta all'altra sul giornale. Cambiando argomento. Cambiando naturalmente argomento, la vignetta di Krančić la consulta e su un altare, un agnello sacrificale, il sacrificio è quello ovviamente di Gaetano Pecorella. Esatto, perché dopo il sacrificio, diciamo così tra virgolette, di Gaetano Pecorella, che ha fatto un passo indietro per la possibile elezione a giudice della Corte Costituzionale, oggi sembra farsi strada un nuovo candidato che potrebbe sbloccare la situazione. Francesca Malaguti, è così? Così, anche se nemmeno la votazione di questa mattina è servita a eleggere il giudice della Corte Costituzionale, la situazione potrebbe in effetti sbloccarsi nella votazione delle 19. Infatti, dopo che ieri Gaetano Pecorella ha fatto un passo indietro, c'è un nuovo candidato per il PDL, Giuseppe Frigo, ex presidente dell'Unione delle Camere Penali, che si definisce un tecnico. La maggioranza conta di eleggerlo con l'appoggio di alcuni settori dell'opposizione. L'UDC annuncia il suo sì, valuteremo con attenzione la proposta, ha detto poco fa il leader del PD Veltroni, e il capogruppo dei Democratici alla Camera Antonello Soro afferma: penso che lo voteremo. Il presidente del Senato Renato Schifani oggi è ottimista, sentiamolo. Andiamo per gradi. Oggi il tema credo che sia più focalizzato all'ordine del giorno della politica è quello del giudice da eleggere per la Corte Costituzionale. Se dovesse essere eletto sarà consumato un grosso passo in avanti. Vi ho manifestato la mia preoccupazione, oggi vi manifesto il mio cauto ottimismo. Intanto questa mattina l'aula è stata animata dalla protesta dei parlamentari radicali che in polemica con l'ennesima fumata nera hanno occupato l'emiciclo. Il presidente Fini ha interrotto la seduta e i commessi hanno portato via con la forza i 3 senatori radicali. Da Roma per il momento è tutto. Grazie Francesca Malaguti, staremo a vedere che succederà. Sfida Italia-Francia sul clima, sfida in Parlamento, tiriamoci un po' su parlando di cose un po' più leggere e di un'altra sfida. Stasera torna la Champions League, la Fiorentina rivede il suo ex pupillo Luca Toni, ma la serata di gala è per Juventus-Real Madrid. Le feuille morte se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. C'est une chanson. Nonostante i cambiamenti climatici, è ancora tempo di foglie morte. In perfetta sintonia con l'autunno della Juventus, che si trova nel suo momento più difficile in campionato, a rinnovare una gloriosa sfida europea, quella con Real Madrid. Una storia davvero in bianco nero, con le magie di Omar Sivori, Alfredo Di Stefano, di Del Piero e Raul, di Zidane e Capello. La storia siamo noi, ma il presente sono loro, i madridisti, quasi primi in classifica e comunque imbattuti nel loro campionato. Per la Juventus invece sono guai. Tra infortuni e punti persi, l'allenatore Ranieri si gioca in questa duplice sfida buona parte del suo futuro. Lasciar punti agli spagnoli porterebbe a un'uscita anticipata dalla Champions, con tutte le ricadute del caso. Urge quindi uno scatto d'orgoglio che rialzi l'autostima anche per il campionato. E l'assenza di Buffon, una delle poche certezze, non aiuta. Altro big match, quello di Monaco tra il Bayern di Toni e la Fiorentina di Gilardino. Toni è un ex, ma non ancora un ex centravanti. Attenzione quindi, Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18 minuti, GR Extra Large con le notizie di oggi. Berlusconi a Napoli, i problemi non si risolvono in piazza e agli industriali dice d'accordo con voi su tutto. Il peggio alle spalle, dalla presidente degli industriali Marcegaglia una sferzata di ottimismo. La buona notizia arriva dai tassi interbancari e l'Euribor torna sotto il 5%. Giuseppe Frigo, il nuovo candidato del Popolo delle Libertà alla carica di giudice costituzionale dopo il ritiro di Gaetano Pecorella. Oggi 21esima fumata nera, ma sembra vicino l'accordo. Un patto di stabilità per l'università italiana. In campo scendono ora gli atenei virtuosi. E partiamo proprio da questa notizia, perché anche oggi proteste nel mondo della scuola contro e dell'università, contro i progetti del ministro della pubblica istruzione Gelmini. Proteste appunto anche nelle università, come accade da giorni, contro i tagli, soprattutto in questo caso, previsti dalla legge 113. Ma ci sono anche 13 atenei che abbiamo chiamato virtuosi, quelli che si sono associati nel gruppo di lavoro Aquis, che dice no alle occupazioni e ai blocchi della didattica, ma lancia anche l'allarme: dal prossimo mese spese e stipendi a rischio nelle università che andranno avanti di questo passo, dovranno anche aumentare le tasse. Insomma, per evitare il collasso, i rettori di Aquis lanciano al governo l'idea di un patto di stabilità sui tagli. E allora sentiamo l'intervista. Maria Piera Ceci ha parlato proprio di questo con il rettore di Padova, Vincenzo Milanesi. La situazione è complessa e piuttosto seria. I tagli che sono previsti, soprattutto quelli a partire dal 2010, rischiano di mettere in crisi anche i bilanci delle università più sane. Dobbiamo quindi prendere dei provvedimenti concordandoli con il governo, con il Ministero dell'Economia e con il Ministero dell'Università, in modo da definire piani di rientro per gli atenei che hanno i bilanci in rosso e di dare opportunità di crescita agli atenei che hanno invece i conti in ordine. Insomma, voi volete fare una proposta al Ministero dell'Economia. Insomma, qualche taglio bisognerà pur farlo, però facciamolo con un certo criterio, questo è il senso. Esattamente, cioè il taglio generalizzato dei finanziamenti per fare cassa per il bilancio dello Stato a spese dei bilanci delle università non induce comportamenti virtuosi. Insomma, voi proponete tagli sì, ma alle università che non meritano questi soldi e che li sprecano? Noi chiediamo che i tagli vengano, i quattrini recuperati da questa manovra a spese dei bilanci delle università, vengano messi su un tavolo. A questo tavolo di trattativa gli atenei si impegnano per un piano di riforme interne e in cambio chiedono al governo che questi quattrini vengano reimmessi nel sistema universitario attraverso patti di stabilità che ogni ateneo firmerà con i ministeri dell'economia e dell'università. Quindi sarebbe un modo per costringere, tra virgolette, gli atenei a essere piuttosto severi con i propri bilanci e con le proprie spese soprattutto. Noi siamo pronti a metterci in discussione. Abbiamo, credo, la necessità di una grande operazione trasparente. Ma per fare questo non si può procedere con i tagli indifferenziati, non si può procedere dando una legnata a tutti indipendentemente da quello che hanno fatto come gestione, da quello che producono tra virgolette come didattica e come ricerca. Quindi una legnata indiscriminata assolutamente no, però qualche legnatina all'interno delle università secondo lei c'è margine per poterle dare o no? Ma direi che più che legnatine dobbiamo riqualificare la spesa, cioè non spendere meno ma spendere in una maniera migliore, in una maniera più adeguata a rispondere alle esigenze che l'università italiana è in grado di soddisfare. Ci sono le potenzialità per farlo, bisogna riqualificare la spesa, non legnate. Riqualificare la spesa che cosa vuol dire? Lei se potesse, ad esempio, si guardi in casa nella sua università, sì, se potesse fare qualche risparmio, dove potrebbe farlo? Ma guardi, in 5 anni noi a Padova siamo riusciti a ridurre del 30% i consumi intermedi, per questo ci siamo arrabbiati quando il governo Prodi ci imponeva un taglio indiscriminato del 20% con il decreto Visco-Bersani delle spese di gestione. Vogliamo ricordare cos'è la spesa intermedia? Sono i consumi per correnti, le spese generali, dalle bollette a tutto ciò che serve per far funzionare una organizzazione complessa come l'università, e quindi abbiamo ridotto da 31 milioni di euro a poco più di 20, nonostante siano aumentate le bollette nel frattempo, perché sappiamo tutti quanto il caro vita sia ormai in questi anni, soprattutto certo, negli ultimi, un po' su tutti pesante, i settori. Esattamente. Quindi lì è riuscita a risparmiare sui costi intermedi. Ma non solo io, molti altri atenei lo hanno fatto, qualcun altro è in grado di farlo purché ci si sieda a un tavolo e ci si abbia il coraggio di mettersi in discussione. Ridurre corsi ed esami potrebbe essere un'altra strada? Certamente, però anche questa dei corsi è un qualcosa che veramente va guardato per quello che è. In Italia, prima della riforma del 3+2, avevamo circa 2.400 corsi di studio su un ciclo unico di 4 o 5 anni. Adesso i cicli sono 2, triennio più biennio. Non è mica irragionevole che i corsi siano cresciuti, perché bisogna replicare i corsi, quelli di struttura triennale e quelli che hanno la struttura biennale e che sono in continuità con quelli triennali. Quindi creiamo anche come dire, condizioni per una valutazione obiettiva di quello che sta, di quello che sta succedendo, e non accettiamo più questa logica, questo gioco al massacro, questi processi sommari, questi dati che sono veramente poco attendibili se non contestualizzati. Questo senz'altro, processi sommari sicuramente non sono mai positivi, è vero che l'università viene vista con sospetto, no? Dall'opinione pubblica, perché per anni e decenni è stata utilizzata non virtuosamente da parte di tanti. Ma anche per colpa nostra, tanti. Perché non riusciamo, esattamente, perché non riusciamo a trasmettere alla comunità nazionale questa immagine corretta, questa immagine reale dell'università, dove ci saranno certi episodi di nepotismo e di familismo, ma su migliaia di concorsi che si fanno siamo certamente in grado di uscire con le carte in regola, e lo dimostra il fatto che i nostri giovani 35enni sono a livello internazionale stimati, qualificati, contesi. La fuga dei cervelli è la dimostrazione, è un paradosso, che l'università italiana funziona, perché altrimenti quello che noi formiamo come capacità di ricerca non verrebbe apprezzato altrove. Senz'altro. Altra cosa, eliminare forse qualche sede secondaria, ormai sappiamo che ogni provincetta ha il suo ateneo. Quello questo può essere un altro modo per risparmiare? Certamente, noi chiediamo che a livello regionale o di macro regione, a seconda delle realtà del paese, si ragioni per una riorganizzazione delle attività didattiche che porti a rivedere l'offerta formativa di ciascun ateneo, per eliminare doppioni, per creare sinergie, per creare rete di formazione a livello regionale o macro regionale. Questa dunque è l'intervista di Maria Piera Ceci al rettore di Padova, Vincenzo Milanesi. Ma torniamo a Bagnoli, perché sta proseguendo il discorso del Presidente del Consiglio Berlusconi di fronte alla platea degli industriali di Napoli. Sentiamo ancora qualche passaggio. Si è messa a disposizione per fornire alle banche europee tutta la liquidità di cui avessero bisogno, e ha diminuito le garanzie o il tipo di garanzie che le banche sono tenute a dare in cambio della liquidità che viene concessa dalla Banca Centrale Europea. Confermo quello che ha detto la Presidente prima anche sulla Banca degli Investimenti: 30 miliardi a disposizione delle infrastrutture, ma decine di miliardi a disposizione per dare garanzie alle banche che operano prestiti, soprattutto nei confronti delle piccole e delle medie imprese, da parte della Banca Centrale. Berlusconi dunque sta parlando ora della crisi economica. Già abbiamo sentito dal nostro corrispondente la parte del suo discorso su Napoli, e un'altra battuta invece l'avete sentita nei nostri titoli. Berlusconi si è rivolto anche alle molte manifestazioni di piazza di questi giorni, dicendo: i problemi non si risolvono così. Il suo intervento poi sta proseguendo. Ricordate che qualche tempo fa partì una denuncia sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nelle attività commerciali proprio nel cuore di Roma. Ebbene, ieri è arrivata una notizia. La procura della capitale ha chiesto il sequestro del ristorante Alla Rampa, locale VIP nel cuore di Roma ai piedi di Piazza di Spagna, che sarebbe controllato dal clan della strage di Duisburg. È frequentato da alte cariche dello Stato e da VIP del mondo dello spettacolo, della cultura e del giornalismo. Ora la Procura di Roma chiede di mettere i sigilli al ristorante Alla Rampa, a due passi da Piazza di Spagna. Sarebbe controllato, questa l'accusa, da uomini vicini al gruppo Pelle Vottari Romeo, il clan a cui appartenevano le sei vittime della strage di Duisburg, che nell'agosto 2007 portò sotto i riflettori la faida di San Luca nella Locride. Solo uno dei filoni di una vasta indagine coordinata dalla DDA di Roma e Reggio Calabria, affidata ai carabinieri del ROS, che si concentrerebbe su una ventina di compravendite sospette di alberghi, ristoranti e centri commerciali della capitale. Riciclaggio di denaro sporco, intorno al quale si consumerebbe tra l'altro un inedito patto 'ndrangheta camorra, con i boss calabresi concentrati nei locali del centro storico e quelli dei casalesi negli ipermercati della periferia. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi abbiamo parlato ieri dell'iniziativa dell'appello dei premi Nobel per lo scrittore Roberto Saviano. Oggi iniziativa a Roma, un coro per Saviano, la Casa della Memoria. Fino a stasera i cittadini si alternano nella lettura del suo libro Gomorra. Per noi c'è Vanessa Colangiuli. Sì, buongiorno, dalla Casa della Memoria di Roma, dove in segno di amicizia e solidarietà Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, i cittadini stanno intonando un unico coro, un viavai di gente che da questa mattina si alterna nella lettura di pagine dell'opera di Saviano con la volontà di lasciare il loro contributo di coraggio e impegno civile. Ma sentiamo le testimonianze di chi ha letto e di chi si prepara a leggere. Volevo partecipare perché penso che sia importante che sente tutti noi insieme. È una guerra importante, è una guerra contro i giusti e contro la camorra, e non deve rimanere solo, nessuno tocchi Saviano. Non sono cose sconosciute, non è che Saviano ha scoperto chissà che, l'ha soltanto messa in un libro. Lo Stato invece può fare delle cose istituzionali. All'appello Lo chiamo per Saviano, lanciato da alcuni premi Nobel, si uniscono dunque le voci dei cittadini che liberamente fino a stasera alle 20 scelgono di far risuonare le parole di Saviano. Sono attesi tra gli altri anche Ascanio Celestini, Giovanna Marini e due licei della capitale. Dalla Casa della Memoria di Roma è tutto, se non avete domande vi restituisco la linea. Grazie Vanessa Colangiuli. 13:37, le notizie di oggi. Berlusconi a Napoli, i problemi non si risolvono in piazza e agli industriali dice d'accordo con voi su tutto. Parigi sfida Roma, sul clima andiamo avanti, è responsabile fermarsi, dice Sarkozy, che aggiunge voteremo anche a maggioranza, ma intanto parte il tavolo tecnico. Giuseppe Frigo è il nuovo candidato del Popolo delle Libertà alla carica di giudice costituzionale dopo il ritiro di Gaetano Pecorella. Oggi 21esima fumata nera, ma sembra vicino l'accordo. Famiglia Cristiana attacca la proposta delle classi ponte per i bambini immigrati. Sono classi ghetto, scrive il settimanale Paolino. Tra ricchi e poveri cresce la disuguaglianza e l'Italia al mondo è al sesto posto dopo gli Stati Uniti. Febbre da Super Enalotto, 347 milioni di euro giocati per vincerne 94. E cominciamo con le stime del Fondo Monetario Internazionale che riguardano l'economia italiana, stanno uscendo proprio in questi minuti, ve le leggiamo. In un periodo di shock finanziari per un paese come l'Italia, che ha un potenziale di crescita ed una produttività molto bassi, è molto facile andare in recessione. Questo ha detto Alessandro Leipold, direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario, commentando le ultime previsioni che riguardano il PIL italiano, che segnerà un meno 0,1% nel 2008 e un meno 0,2% nel 2009. Poi a proposito del dibattito in Italia dice più liberalizzazioni e meno aiuti di Stato, e poi invoca anche possibili tagli dei tassi di interesse, questo però a livello europeo, naturalmente dell'euro. Ed è a livello europeo che arriva la buona notizia di oggi, ed è ancora una discesa dei tassi interbancari in Europa. Il tasso Euribor a tre mesi oggi è tornato sotto la soglia del 5% e al 4,97%. In questi minuti però al Senato, in Commissione Finanze, sta parlando il governatore di Banca Italia Mario Draghi. Vincenzo Miglietta, cosa sta dicendo? Sì, buongiorno, la presenza di Draghi segue quella di alcuni giorni fa in aula alla Camera del Ministro dell'Economia Tremonti e sempre qui a Palazzo Madama del Presidente della Consob Cardia. Draghi ha puntato il dito per quanto è accaduto sulla crisi internazionale, sulla trasformazione che il mercato finanziario ha subito negli ultimi anni, propensione al rischio modificata, nuovi prodotti finanziari, accresciuto ruolo degli intermediari non bancari. Il governatore ha parlato poi di controlli inadeguati, di imperizia e di illegalità. Lo sviluppo di quanto accaduto era prevedibile, ha detto Draghi. Il governatore ha auspicato per questo scelte coraggiose, fra le quali rafforzare il capitale, la liquidità, una maggiore trasparenza anche nel ruolo del management. E da Palazzo Madama è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E anche su questo argomento la satira dei quotidiani, Avvenire, come spesso una vignetta tratta da un quotidiano americano. C'è una tavola apparecchiata con dei bambini che guardano il papà che ha sotto braccio un signore vestito in giacca e cravatta con una valigia e dice: nello spirito della crisi, ragazzi, adotteremo un broker. Da Berlusconi un istante fa un nuovo annuncio: la prossima settimana tavolo con le imprese per la crisi dei mercati, così ha detto poco fa il Presidente del Consiglio. Ma c'è anche un'altra questione che riguarda le banche. Sì, naturalmente stavamo parlando di questo, di banche, e dopo Fortis il governo di Amsterdam, come sapete, è sceso in campo domenica scorsa per ricapitalizzare con 10 miliardi di euro niente meno che ING, una delle 20 maggiori banche al mondo. Deborah Rosciani ha intervistato per noi il general manager di ING Direct in Italia, Bernd Gailen, che questa mattina ha presentato le nuove strategie del gruppo proprio per il mercato italiano. Sentiamo. Il l'operazione di governo olandese era un'operazione preventiva. La ricapitolazione non era di Insdadig, era di Inschoof. E penso che Inschoof, che è una banca per il cliente di retail, era molto molto importante avere un livello di patrimonio molto molto alto, e questa è la qualcosa che abbiamo fatto. Il patrimonio è molto importante per una banca, anche avanti l'aumento del patrimonio abbiamo avuto un livello giusto, ma adesso abbiamo un livello molto alto e molto bene per la sicurezza delle clienti. Penso che la crisi dei mercati la rallenterà e tutti gli stati hanno preso le operazioni giuste, hanno più o meno garantito i depositi per i risparmiatori, e penso questo è un segno molto positivo. Nel prossimo due mesi forse c'è ancora un po' di volatilità, ma in un periodo medio penso che il mercato rallenterà. E intanto, per quanto riguarda l'economia reale, c'è un sempre maggiore divario tra poveri e ricchi in Italia. A dirlo è il rapporto dell'OCSE, che analizza la distribuzione del reddito dei 30 paesi che compongono appunto questa organizzazione. L'Italia è infatti al sesto posto per il gap tra le classi sociali, dopo il Messico, la Turchia, il Portogallo, gli Stati Uniti e la Polonia. La disuguaglianza economica è cresciuta, secondo il rapporto, pensate, del 33% dalla metà degli anni 80 fino ad oggi. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Andiamo sui giornali stranieri con te e cominciamo dalla Gran Bretagna, dove c'è una storia di cui si parla molto in queste ore. Sì, l'Afghanistan domina un po' tutte le pagine dei quotidiani britannici. L'Independent parla soprattutto di Gayla Williams, questa ragazza, ci sono anche tante foto, un viso molto molto giovane, ma proprio anche una bellissima giovane ragazza, aveva solo 34 anni, che è stata uccisa in Afghanistan, e probabilmente per il semplice fatto di essere cristiana. Era una cooperante, lavorava in Afghanistan da parecchio tempo e naturalmente la vicenda ha, tra l'altro, è stata uccisa in una zona di Kabul che dovrebbe essere sicura, questo naturalmente per quanto possa, per il significato che può avere la parola sicura Kabul. Il Guardian invece dà notizia dell'ennesimo attentato in cui sono morti due soldati tedeschi e cinque bambini afghani. Questo per spiegare come a volte, da tempo del resto, parliamo molto di Iraq e ci dimentichiamo di quanto caldo ancora sia lo scenario in Afghanistan. E Giulia, adesso parliamo di Hollywood e di una possibile serie di telefilm che potrebbe venire fuori proprio da... Proprio da Hollywood, perché come sempre Hollywood è molto ricettiva sull'attualità, sulla cronaca, quindi così come dopo il crash, gli ultimi crash erano venuti fuori poi film come Wall Street, piuttosto che tutte le serie televisive tipo Law and Order, che tutto a un tratto avevano come criminali principali i broker di Wall Street, sta succedendo la stessa cosa. E così sia negli show che sono in onda tutti i giorni, come quello di Martha Stewart, per esempio, si comincia a parlare sempre più spesso di crisi. Tra l'altro Martha Stewart qualche scheletro nell'armadio borsistico ce l'ha, è stata anche arrestata anni fa, e poi soprattutto si preparano molte sceneggiature, sia per appunto le serie già in onda come Law and Order, che vediamo anche qui, persino CSI, probabilmente, dice il New York Times, avrà come protagonisti dei broker che ormai sono i diavoli moderni, e poi naturalmente ci sarà un'ondata di nuovi film hollywoodiani. Grazie Giulia Crivelli. GR Extra Large, le notizie di oggi. Berlusconi a Napoli annuncia un tavolo con le imprese contro la crisi e dice i problemi non si risolvono in piazza. Parigi sfida Roma, sul clima andiamo avanti, voteremo a maggioranza, dice Sarkozy, ma intanto parte il tavolo tecnico. Famiglia Cristiana attacca la proposta delle classi ponte per bambini immigrati. Sono classi ghetto, scrive il settimanale Paolino. Febbre da Superenalotto, 347 milioni di euro giocati, per vincerne 94. Lavorare mai? Perché devo controllare i numeri del Superenalotto. Ah, comunque guarda, se vinci passo la mattinata in ufficio in mutande. Paolo! Paolo! Sfogliati! Ah. Qualcuno di voi ha giocato per caso al Super Enalotto? Naturalmente anche questo è un modo per tentare di superare la crisi. In palio ci sono ben 94 milioni di euro per grosso il fatidico modo, 6. Qualcosa in più forse, qualche nocciolina in più. Però sono cifre che fanno impressione. Nelle proprie tasche la crisi la risolverebbe. Però c'è anche da dire che gli italiani ne hanno spese davvero di più per tentare la fortuna. Allora Claudio Ramoni dell'agenzia AG Pro News, il Super Enalotto lo tiene d'occhio a tutte le estrazioni, lo salutiamo, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno, bentrovati. Dicevamo, allora, bottino record, giocate altrettanto record. Decisamente. Calcoli che ci sono in palio 95 milioni di euro, che sono la cifra più alta messa in palio nella storia dei concorsi in Italia, ma ad oggi anche il jackpot più alto al mondo. Nessun'altra lotteria nell'intero mondo riesce a mettere in palio una cifra del genere. E a testimonianza di questo, gli italiani sono proprio impazziti, una vera e propria febbre che impazza. Tant'è che solo nel concorso di sabato sono stati giocati quasi 70 milioni di euro e nel mese di ottobre, dal primo concorso, sono stati spesi quasi 350 milioni, qualcosa come 700 miliardi di lire, quindi però a testimonianza di quanto gli italiani credano in questa sistina, ecco, che comunque sfugge veramente da sei mesi. Ecco, ma sfugge da, dicevi? Da fine aprile. L'ultima vince è stata centrata in provincia di Torino dal 26 aprile, sono sei mesi ininterrottamente di latitanza, ecco, di questo 6. Ma quanto è facile azzeccarlo? Insomma, quanti 6 si vincono mediamente ogni anno, per esempio? In media stiamo considerando che in 10 anni sono stati centrati un'ottantina di 6, ecco lì che la media insomma intorno agli 8-6 l'anno. Quest'anno siamo fermi a 3, infatti siamo decisamente bassi. Nella storia del Superenalotto non era mai successo che a questo punto della stagione fossero stati centrati solamente 3-6. D'altronde le probabilità dicono, adesso non vorrei scoraggiare i nostri ascoltatori, però cioè è una probabilità su 600 milioni. No, ma mi pare che milioni. Non si lasciano scoraggiare perché vanno tutti a giocare, quindi anzi, ci credono. Assolutamente, ci credono, tant'è... La probabilità, dicevi, è una? Sì, è una su 622 milioni. Che cifra, ecco, impressionante, vabbè. Detta così è basta. Detta così, basta pensare ai 95 milioni di euro e naturalmente la paura passa. Magari la voglia viene. Grazie per essere stato con noi, Claudio Ramoni dell'agenzia AG Pro News. Buona fortuna a chi ha giocato. Ma noi adesso andiamo avanti intanto col giornale. Parliamo con un di altre nuovo cose. Attacco che riguarda ancora il mondo della scuola. Sì, perché Famiglia Cristiana, come avete sentito anche dai nostri titoli, attacca la proposta che viene dal governo, in particolare dal ministro Gelmini, delle classi ponte per i bambini immigrati, che definisce Famiglia Cristiana classi ghetto. Addita la mozione approvata dal governo come il primo provvedimento razziale proprio del Parlamento. Dunque un duro attacco dal settimanale paolino, non è il primo, però questa volta molto, molto forte sui temi, in questo caso dell'istruzione, del razzismo dal punto di vista appunto di Famiglia Cristiana. Attacco al governo. Scuole straniere, insomma, come integrare bambini che parlano a volte poco e male l'italiano? Un viaggio su cosa accade in altri paesi ci fuori porta... dalle ideologie, insomma, fuori. Cerchiamo di farlo per, ci porta oggi per proporre ai nostri ascoltatori altre soluzioni di chi il problema se l'è già posto, e oggi con Igor Fiatti andiamo in Francia. Si chiamano classi d'avvio, classi d'accoglienza, ma non sono altro che le classi ponte proposte dalla Lega Nord. In Francia un percorso scolastico ad hoc per immigrati non è affatto un tabù, anzi è una realtà consolidata che ormai alle spalle ha una storia ultraventennale. Così da oltre due decenni i figli dei nuovi arrivati iniziano il loro percorso scolastico affrontando un test di francese organizzato dai provveditorati. E chi non lo parla assolutamente o mostra delle evidenti lacune viene inserito in classi specifiche. Classi che esistono in ogni ordine e grado scolastico. Alle elementari si chiamano classi d'avvio, mentre alle medie e alle superiori si chiamano classi d'accoglienza. E anche se il nome cambia, la sostanza e gli obiettivi sono sempre gli stessi. Reinserire gli allievi nel percorso normale di studi il prima possibile. E di solito ciò avviene in 9-12 mesi. Ne parlo con Napolin, che insegna in una classe d'accoglienza in una scuola media della banlieue parigina. L'idea per certains c'est de laisser tous les élèves dans la même classe. Lasciare tutti nella stessa classe e garantire a tutti gli stessi insegnamenti sono idee di eguaglianza impossibili da applicare nella realtà, osserva. Gli alunni che non parlano francese non possono seguire le lezioni e quindi per prima cosa devono impararlo. Stando alle sue parole, questo percorso di inserimento è meno duro e meno traumatico rispetto a un percorso normale. Mi dice che meno violento e si crea meno conflittualità con gli altri studenti. Gabriel insegna invece in un liceo della periferia di Parigi. Mi parla della sua esperienza. La classe d'accoglienza è un vero fattore di integrazione. Il solo problema, mi spiega, è che non ce ne sono abbastanza. Costano e poi non ci sono abbastanza professori specializzati nell'insegnamento del francese per gli stranieri. Così, molte volte, l'insegnamento viene affidato a persone che non hanno una preparazione specifica. Secondo me, dopo le classi d'accoglienza, a questi ragazzi si dovrebbero garantire delle ore di sostegno settimanali. Lo chiediamo noi insegnanti, ma non ci sono i soldi per farlo. Ad ogni modo, sostiene, la trovo una cosa decisamente di sinistra. Insegnare la lingua dei ragazzi per consentirli di restare in Francia a studiare e a lavorare è la sola via per integrarli. E ora parliamo di libri, e precisamente di noir per gli amanti. Un noir insolito, grottesco e pieno di ironia si intitola L'incredibile viaggio di Pomponio Flato, pubblicato in Italia da Giunti e scritto da Eduardo Mendoza, autore molto noto in Spagna. Ambientato nel primo secolo d.C., racconta la storia di un uomo, Pomponio, che viaggia alla ricerca di un'acqua che dovrebbe dargli saggezza. Ecco come l'autore descrive il protagonista nell'intervista di Alessandra Tedesco. Es como él mismo dice, un romano de clase noble. Come lui stesso si autodefinisce, è un patrizio romano, uno studioso, un uomo che crede nella forza della logica, ma che all'improvviso si trova coinvolto in una situazione dove tutto vale, ad eccezione della logica, della ragione e della parola. Nel romanzo intervengono personaggi noti al mondo occidentale, quantomeno al mondo cristiano. Pomponio si trova invischiato, in certo senso, in un giallo. Un falegname sta per essere crocifisso e il figlio di questo falegname si chiama Gesù. Come mai la scelta di questi personaggi? Tutto il romanzo è molto ironico, a volte anche a tratti grottesco. Tampoco es una idea tan sorprendente. Había estado leyendo cosas relacionadas con. Non credo che sia un'idea così sorprendente. Avevo letto cose sulla religione, sulla storia dell'epoca classica e quella dei tempi moderni. Che occurriría si costruyera una novella de misterio con esto. Allora mi sono chiesto perché non scrivere un romanzo noir con questi personaggi, ma prima che diventassero conosciuti. Per intenderci, Gesù è solo un bambino e Maria in quel momento è solamente una madre. Sua madre si chiama Maria, però solo è una madre. Consumi a rischio, l'allarme del governatore di Banca Italia Draghi. Una buona notizia arriva dai tassi interbancari. L'Euribor a tre mesi torna sotto il 5%. Berlusconi, i problemi non si risolvono in piazza. Gli industriali dice sono con voi, presto un tavolo per la crisi. Parigi sfida Roma sul clima, andiamo avanti, è irresponsabile fermarsi, dice Sarkozy, ma intanto parte il tavolo tecnico tra Italia e Commissione Europea. È fatta? Per la consulta sembra vicino l'accordo tra i poli, il nome che potrebbe mettere pace è quello dell'avvocato Giuseppe Frigo. Famiglia Cristiana attacca la proposta delle classi ponte per i bambini immigrati, sono classi ghetto, scrive il settimanale Paolino. Febbre da Superenalotto, 347 milioni di euro giocati per vincerne 94. E termina qua questa edizione del GR Extra Large con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè, in studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati. Che vi danno appuntamento come sempre a domani a partire dalle 13, Extra Large @radio24.it se volete scriverci. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.